Nel frattempo, ricordando d'essere di razza più pura della casa di Francia, il barone diceva a se stesso che era pur buono a farsi tanto cattivo sangue per il figlio d'un maggiordomo il cui padrone, lui Charlus, non si sarebbe certo degnato di frequentare. D'altra parte, se non provava quasi più piacere ormai che a frequentare la gentaglia, l'abitudine radicata in siffatti individui di non rispondere alle lettere, di mancare agli appuntamenti senza avvertire prima e senza scusarsi dopo, gli dava, poiché spesso si trattava di amori, tante emozioni e per il resto del tempo gli provocava tanta irritazione, tanto imbarazzo e tanta rabbia che gli capitava a volte di rimpiangere la moltiplicazione di lettere per un non nulla, l'esattezza scrupolosa degli ambasciatori e dei principi, i quali, se gli erano purtroppo indifferenti, gli procuravano, malgrado tutto, una sorta di riposo. Abituato ai modi di Morel e sapendo d'aver ben poca presa su di lui, d'essere impotente a insinuarsi in una vita dove compagni volgari, ma consacrati dall'abitudine, occupavano troppo spazio e troppo tempo perché avanzasse un'ora da dedicare al gran signore escluso, orgoglioso e vanamente supplice, Charlus era talmente convinto che il musicista non sarebbe venuto, aveva talmente paura, spingendosi troppo oltre d'aver rotto per sempre con lui, che al vederlo trattenne a stento un grido. Ma, sentendosi vincitore, volle dettare le condizioni della pace, traendone personalmente tutti i vantaggi possibili. «Che ci fate qui?» gli chiese. «E voi?» aggiunse guardandomi. «Vi avevo raccomandato, più di ogni altra cosa, di non portarlo!» «Lui non voleva portarmi», disse Morel roteando verso Charlus nell'ingenuità della sua civetteria, sguardi convenzionalmente tristi e languidamente fuori moda, con l'aria che riteneva certo irresistibile di voler baciare il barone e di aver voglia di piangere. «Ho deciso io di venire, suo malgrado. Vengo in nome della nostra amicizia a supplicarvi in ginocchio di non commettere questa follia». Charlus delirava di gioia. La reazione era davvero forte per i suoi nervi, tuttavia ne rimase padrone. «L'amicizia da voi invocata in modo alquanto inopportuno», replicò seccamente, «dovrebbe al contrario assicurarmi la vostra approvazione quando ritengo di non dover lasciare impunite le impertinenze d'uno sciocco. D'altronde, se volessi obbedire alle preghiere d'un affetto che ho conosciuto meglio ispirato, non ne avrei il potere. Le lettere per i miei padrini sono partite e non dubito del loro consenso. Avete sempre agito con me come un piccolo imbecille e anziché andare fiero, come ne avreste il diritto, della predilezione che vi avevo dimostrata, anziché far capire alla turba di graduati o di domestici fra i quali la legge militare vi costringe a vivere quale motivo di incomparabile orgoglio fosse per voi un'amicizia come la mia, avete cercato di scusarvene, quasi di farvi uno stupido merito della vostra irriconoscenza. So che in questo», aggiunse per non lasciar capire quanto certe scene l'avessero umiliato, «siete colpevole solo di esservi lasciato fuorviare dalla gelosia degli altri. Ma come? Alla vostra età siete tanto bambino e bambino tanto maleducato da non aver immaginato subito che l'essere stato scelto da me e tutti i vantaggi che ve ne sarebbero derivati non avrebbero mancato di suscitare gelosie? Che tutti i vostri compagni, mentre vi istigavano a rompere con me, stavano adoperandosi per prendere il vostro posto? Non ho creduto di dovervi avvertire delle lettere che ho ricevute a questo proposito da tutti coloro di cui più vi fidate. Disdegno le profferte di questi lacchè quanto le loro beffe impotenti. La sola persona di cui mi curo siete voi, perché vi voglio bene. Ma l'affetto ha dei limiti e avreste dovuto pensarci». Per quanto la parola lacchè potesse suonare dura alle orecchie di Morel, il cui padre lo era stato, ma appunto perché suo padre lo era stato, la spiegazione di ogni disavventura sociale attraverso la gelosia, spiegazione semplicistica e assurda, ma imperitura, e che in una certa classe funziona sempre in modo tanto infallibile quanto i vecchi trucchi presso il pubblico dei teatri, o la minaccia del pericolo clericale nelle assemblee, riscuoteva in lui un credito quasi altrettanto forte che in Françoise o nei domestici di Madame de Guermantes, per i quali la gelosia era la sola causa delle disgrazie dell'umanità. Charlie non dubitò che i suoi compagni avessero tentato di soffiargli il posto, e questo lo fece ancor più disperare per quel duello calamitoso e d'altronde immaginario. «Oh, che sciagura!» esclamò. «Come potrò sopravvivere? Ma non devono venire da voi prima di andare da quell'ufficiale?» «Non so, penso di sì. Ho fatto dire a uno di loro che mi tratterrò qui stasera e gli darò le mie istruzioni. Spero prima della sua venuta di farvi intendere ragione. Permettetemi solo di restare accanto a voi», gli chiese teneramente Morel. Era quanto Charlie desiderava. Non volle cedere subito. «Avreste torto se applicaste a questo caso il «chi più ama più punisce» del proverbio. Poiché chi amavo siete voi, mentre intendo punire, anche dopo il nostro litigio, chi ha vilmente cercato di farvi torto. Fino ad ora, alle loro insinuazioni indagatrici, che osavano chiedermi come mai un uomo par mio potesse bazzicare un gigolò della vostra specie venuto fuori dal nulla, non ho mai risposto altrimenti che con il motto dei miei cugini La Rochefoucauld, c'est mon plaisir. Vi ho anche dimostrato a più riprese che tale piacere era suscettibile di diventare il più grande dei miei piaceri, senza che dalla vostra arbitraria elevazione dovesse risultare un abbassamento per me». In un moto d'orgoglio quasi folle, esclamò, alzando le braccia, «Tantus ab uno splendor!» «Condiscendere non è discendere», aggiunse con più calma, dopo quel delirio di fierezza e di gioia. «Spero almeno che i miei due avversari, malgrado il loro rango ineguale, siano d'un sangue che io possa far colare senza vergogna. Ho preso in proposito qualche informazione discreta che mi ha rassicurato. Se serbaste per me un po' di gratitudine, dovreste invece essere fiero di vedere come per causa vostra io risusciti l'umore bellicoso dei miei antenati, dicendo come loro, nel caso d'un esito fatale, ora che ho capito quale lazzaroncello voi siate, morte ma è vita». E Charlie lo diceva sinceramente, non solo per amore di Morel, ma perché un certo gusto battagliero che ingenuamente credeva gli venisse dai suoi antenati gli dava tanta allegria al pensiero di battersi che quel duello escogitato dapprima solo per far accorrere Morel avrebbe provato qualche rimpianto adesso a rinunciarvi. Non aveva mai affrontato una contesa senza credersi all'istante valoroso e identificarsi con l'illustre conestabile di Guermantes, mentre per chiunque altro il medesimo atto di scendere sul terreno gli appariva del tutto insignificante. «Penso che sarà molto bello», ci disse con sincerità, salmodiando ogni parola, «vedere sarà Bernard nell'Aiglon, che sarà mai? Cacca! Monet sull'I in Edipo? Cacca! Al massimo assume un certo pallore di trasfigurazione quando si svolge nell'arena di Nîmes. Ma che sarà mai in confronto a questa cosa incredibile, veder combattere il diretto discendente del conestabile?» E a quel solo pensiero il signor di Charlieu, fuori di sé dalla gioia, si mise a fare delle controinquartate che ricordavano Molière e ci fecero accostare prudentemente i nostri boccali, insinuandoci il timore che al primo incrociarsi le lame potessero ferire avversari, medici e padrini. «Che spettacolo allettante per un pittore! Voi, mi disse, che conoscete il signor Elstir, lo dovreste portare!» Risposi che non era sulla costa. Charlieu suggerì che si sarebbe potuto telegrafargli. «Oh, lo dicevo per lui», aggiunse di fronte al mio silenzio. «È sempre interessante per un maestro, e lui lo è a mio avviso, poter fissare un simile esempio di riviviscenza etnica, e non ce n'è forse uno per ogni secolo».